9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio settimana. Io mi scuso perché oggi sentirete una voce un po' così, perché ho avuto troppi problemi da aria condizionata diverse lavorando in giro per l'Italia. Comunque mi auguro che non sia più fastidiosa del solito. Di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo della vicenda Fiat Pomigliano, che come sapete venerdì scorso, dopo un aggiornamento dell'incontro che si era tenuto due giorni prima e che non era addivenuto a una conclusione tra l'azienda da una parte e i sindacati dall'altra, venerdì l'incontro dopo un avvio, una sospensione fino alle 19, si è concluso con una presa d'atto che al momento vede l'azienda convenire con 4 sindacati su 5, cioè con i metalmeccanici della CISL, della UIL, dell'UGL e con quelli della FISMIC, un documento relativo a aggiunte rispetto a ciò che è previsto dal contratto nazionale per innalzare la produttività dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, in cui lo ricordo a tutti, il numero di veicoli prodotti l'anno scorso è stato 36.000. Nel piano Fiat al 2014, quindi di qui a 3 anni, l'obiettivo è di moltiplicare per 8 questa produzione a Pomigliano d'Arco, passare da 36.000 auto a 270.000 auto. E naturalmente per fare questo l'azienda ha chiesto e ha convenuto poi con 4 sindacati su 5 un impegno per turni aggiuntivi fino a 18, l'utilizzo degli impianti, gli straordinari, norme aggiuntive ed estranee a quanto previsto anche dal contratto nazionale di categoria, per esempio l'impegno al divieto di sciopero qualora servissero i turni notturni anche il sabato, e per esempio l'azienda ha avuto il coraggio, fegato se volete, e i sindacati si sono trovati d'accordo con l'azienda nel sottoscrivere una norma che dal mio modesto punto di vista prende per le corna un tabù che di solito nel rito decennale delle trattative aziendali, tanto più nei contratti nazionali di categoria, rappresenta un vero e proprio tabù. Già i precedenti temi sono abbastanza tabù, ma voi capite che mettere nero su bianco che in uno stabilimento come a Pomigliano l'azienda si riserva, e i sindacati concordano con l'azienda in questo caso avviando procedure di controllo comune, di non pagare i contributi sanitari ai dipendenti che risultassero assenteisti abituali, finti malati, finti scrutatori alle elezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo significa prendere un toro per le corna, cioè significa mettere nel mirino assenteisti e finti malati e dire al sindacato, insieme, azienda e sindacato, iniziano a dire che i lavoratori disonesti sono lavoratori disonesti, cioè che impediscono la difesa dei posti di lavoro alla stragrande maggioranza dei loro colleghi che invece sono onesti. Naturalmente io non intendo usare questo esempio come se fosse l'accordo storico perché ci sono i lavoratori disonesti, no, ho fatto solo un esempio dei tanti temi che, essendo nell'accordo, innovando radicalmente rispetto al contratto nazionale di categoria e adottando la prospettiva che per difendere stabilimenti e posti di lavoro nell'ottica della globalizzazione, quando c'è un'azienda come la Fiat che dopo 100 anni in cui chiedeva i contributi pubblici finalmente non li chiede più e si impegna in una grande opera di balzo internazionale delle produzioni, effettivamente mettere le compatibilità e la produttività degli altri paesi al centro dell'analisi e della condivisione col sindacato per crescere con regole comuni ma senza chiudere gli occhi di fronte alla concorrenza degli stabilimenti nelle altre parti del mondo, a me sembra una svolta storica. Ma naturalmente la mia opinione conta quello che conta, la cosa più interessante è vedere chi la pensa stando nello stabilimento e che ha sulla propria pelle l'esperienza dello stabilimento e ha chiaro cosa vuol dire. Del resto 700 milioni di investimento, 5.000 dipendenti, quindi 15.000 familiari e un paio di centinaia di aziende dell'indotto in quella delicatissima area, non lo devo dire io, è chiaro a tutti che è Pomigliano d'Arco fuori Napoli e che cosa vorrebbe dire invece perdere questa prospettiva. Allora, iniziamo a sentire dai nostri ospiti come la pensano. Iniziamo con, io intanto ve li presento, inizierei chiedendo un'opinione a Franco Percuoco, che è delegato FIOM CGL a Pomigliano. Buongiorno Percuoco. Buongiorno a voi. Ecco, la FIOM si è riservata, oggi si riunisce il suo organo, i giornali parlano di una segreteria generale della CGIL orientata su un nome non netto di quello della FIOM, ma al di là della dialettica con gli altri sindacati e di che cosa deciderà la FIOM oggi, ci dica, stando nello stabilimento, dal suo punto di vista, perché era motivata e motivato il no a questa impostazione? Allora, innanzitutto dobbiamo fare molta attenzione, perché gli argomenti che lei trattava sulla questione della malattia sono facilmente strumentalizzabili. È vero. Ci stanno altri esempi che io non vorrei usare in maniera strumentale, ma ho letto qualche settimana fa che un consigliere regionale del Piemonte, non voglio dire a quale partito apparteneva, avendo un doppio incarico, si è messo in malattia al consiglio regionale per andare a una seduta dei parlamentari. Quindi voglio dire, su questo è facilmente spiegabile. Noi siamo i primi ad essere contro gli abusi, però una cosa è combattere gli abusi per difendere i diritti e una cosa è strumentalizzare gli abusi per eliminare i diritti. Allora, noi come sindacato unitariamente avevamo trovato una posizione unitaria per permettere all'azienda l'utilizzo maggiore degli impianti per produrre le 280.000 vetture. Addirittura abbiamo dato un'articolazione diversa delle pause per arrivare a 300.000 vetture se il mercato ne avesse bisogno. A questo però l'azienda, e lei lo diceva molto chiaramente, l'azienda ha inserito delle clausole che vanno al di là del contratto nazionale, addirittura delle leggi. In un primo momento il sindacato unitariamente aveva rifiutato di firmare deroghe a qualsiasi contratto e leggi, e nella fase iniziale della trattativa di venerdì tutti avevano chiesto le modifiche a quel testo. Poi non so da quale alto senso di responsabilità sono stati fulminati, e dopodiché, nonostante non ci sia stata nessuna modifica, si sono ravveduti e hanno deciso di dare la loro disponibilità a quel testo. Noi per il momento ci riserviamo di dare una risposta definitiva, perché dall'attenzione che sta ponendo sia la politica, sia Confindustria, sia tutti gli altri attori sociali, riteniamo comunque che la questione di Pomigliano non sia una questione più locale, ma bensì di una portata molto molto più ampia. Senta, per cuoco, le faccio un esempio. Anche l'anno scorso, questa è una stagione in cui la CGIL e la FIOM spesso dicono no, hanno detto no al nuovo modello contrattuale a febbraio dell'anno scorso. Vi faccio un esempio. Anche alla Piaggio, altro accordo aziendale non così tanto innovativo oltre il contratto nazionale, ma anch'esso con degli aspetti di governo della produzione che andavano oltre il contratto, anche in quel caso la FIOM l'anno scorso ha detto no. Poi lì ci fu un referendum, e l'impegno è a fare un referendum tra tutti i lavoratori di Pomigliano, anche a Pomigliano, e la FIOM dopo no si allineò. È ipotizzabile che se le cose andranno così anche a Pomigliano, si è detto, referendum, tutti i lavoratori votano, di fronte a un sì dei lavoratori la FIOM comunque dice prendiamo atto e da questo momento in poi ci stiamo nelle procedure condivise, secondo lei? Allora, dovete scusare la mia memoria corta, non ricordo quello che è successo precedentemente, però io voglio tenermi legata alla questione che conosco bene, che vivo da vicino, e quindi parliamo della questione di Pomigliano. Certo. È naturale che la FIOM ha sempre sostenuto che qualsiasi accordo dovesse essere avallato dal confronto con i lavoratori. Ma lo stanno riscoprendo anche gli altri. Meglio così, no? Meglio così. Però il problema è che fino adesso i referendum sono serviti per poter anche riaprire le trattative e quindi poter migliorare gli accordi. Oggi invece ci troviamo a fare un referendum dicendo o questo o si chiude, è come se dire vuoi morire o vuoi vivere, quindi diciamo è un poco anomala come referendum, però naturalmente noi prenderemo atto poi se c'è questa volontà di fare il referendum e di consultare i lavoratori. Quindi la posizione della FIOM è, si arriva a un referendum con la posizione che quarta, insomma, la libera espressione dei lavoratori, perché voi capite bene che l'azienda ha detto tanto questo documento non si cambia, o è così o per noi le condizioni per tenere aperto lo stabilimento non ci sono più, e noi portiamo le linee che avevamo proposto di portare dalla Polonia qua, le riportiamo in Polonia, in Serbia o nel Messico dove abbiamo le offerte, perché la questione non è tanto il costo comparato del lavoro, ma la questione è la produttività delle aziende. Allora io prego per poco di rimanere con noi, perché sicuramente ci sarà bisogno di risentire ancora il punto di vista più esplicitamente critico rispetto a questa svolta, perché è una svolta secondo me anche rispetto ai 40.000. I 40.000 erano i quadri Fiat che protestavano contro i sindacati dall'ottobre dell'80, che non li facevano entrare da 35 giorni con i picchetti fuori l'azienda. Erano lavoratori esasperati contro i sindacati. Questa volta la svolta è rappresentata dalla maggioranza dei sindacati, che dichiarano di non considerare più la globalizzazione come uno strumento attraverso cui si ruba lavoro agli italiani. E non è una cosa che impone ai lavoratori italiani, sarebbe impensabile, antistorico, di essere pagati o coi diritti di quelli dei paesi meno avanzati, ma obbliga a pensare di fare, per tenere in Italia la produzione, il segmento elevato, l'engineering di gruppi come questi dell'automobile, che sono comunque fondamentali nella manifattura, a innalzare la produttività e il valore aggiunto degli stabilimenti anche in Italia, i quali poi li abbiamo tenuti aperti, i 5 italiani, grazie al fatto che negli anni scorsi l'utile, è tornato l'utile in Fiat grazie a Marchionne, si faceva negli stabilimenti brasiliani e polacchi e non in quelli italiani. I conti di Fiat Auto dicono questo. Ma io capisco che i lavoratori dicano sì, ma intanto con quello che guadagniamo voi ci chiedete anche il sangue. Per questo è una svolta storica, secondo me, perché chiede ai sindacati di entrare nel merito con l'azienda, e stavolta accettando un'impostazione dell'azienda molto tosta, perché quelli hanno detto chiudiamo, non è che si sono messi a ragionare, hanno detto chiudiamo, comprarsi un pezzo di corresponsabilità da impiegare dopo per vedere di, dal basso, stabilimento per stabilimento, rilanciare la produttività dovunque, ma portare a casa anche più reddito disponibile per i lavoratori, perché la sfida è questa, non solo quella di dire all'azienda hai ragione. È una sfida difficilissima per la storia che abbiamo alle spalle e l'amara crudezza dei conti della competizione sui mercati. Sentiamo come la pensa Giovanni Sgambati, che è segretario generale della UILM, dei metalmeccanici, cioè della UIL Campania. Sgambati, lei che ne pensa? Buongiorno, ma vedo, direttore, che lei è molto sempre preciso. Io volevo fare giusto due osservazioni. Una sulle deroghe. Molto spesso in aziende meno significative le deroghe si fanno soprattutto su molte materie senza colpo ferire, magari anche nella gloriosa regione Emilia-Romagna, quando serve, perché un sindacato responsabile si deve misurare anche con le condizioni della controparte, non può pensare che noi siamo da soli, noi possiamo decidere il nostro futuro da soli, bisogna negoziarlo. E con Fiat ci siamo trovati nel doppio svantaggio: da un lato Fiat che aveva la leva dell'investimento se farlo o no, e dall'altro di fronte a una crisi come quella che abbiamo. Queste sono state le ragioni per cui noi abbiamo responsabilmente aderito a quella intesa. E anche sul referendum qua da queste parti, io vorrei ricordare ciò che è accaduto nel mese di novembre in un'azienda collegata a Fiat, ma ovviamente anche del gruppo Fiat della Marelli, la Ergom. Non si era condiviso la proroga della cassa integrazione, questa in deroga dei 12 mesi del decreto Sacconi. Bene, a Pomiano non si è riuscito a fare perché la Fiat ha rifiutato anche di fare l'accordo con chi ci stava. In Ergom si è deciso di fare il referendum sulla proroga alla cassa, anche là la FIOM non aveva condiviso, i lavoratori hanno approvato e le condizioni in ergo, ma anche su alcune cose banali di gestione, pensiamo alle trasferte e quant'altro, mentre su Pomigliano sono state immediatamente sospese, in ergo sono continuate a essere strumenti per poter alleviare, non del tutto la cassa, perché la cassa colpisce fortemente ancora in queste realtà, ma soprattutto si è evitato che gli stessi strumenti di irrigidimento che Fiat ha utilizzato a Pomigliano non venissero utilizzati in ergo. Ecco, io penso che quanto le organizzazioni sindacali poi assumono responsabilmente, sono netti il giudizio, la forza dei lavoratori, come è stata anche in Piaggio, i lavoratori sono sovrani sempre. E questo dimostra perché è necessario cambiare anche le nostre regole di relazioni sindacali. Non possiamo immaginare che cosa avevamo negli anni 80 possa essere valido nel 2010 con un processo economico, un mondo completamente cambiato da come era 30 anni fa. Ora abbiamo terzo osservatore che chiamiamo spesso quando si tratta di parlare di Mezzogiorno, di Sud di Napoli, eccetera, il professor Domenico De Masi, che insegna sociologia del lavoro alla Sapienza, e insomma dà una mano da par suo, secondo me, anche al rilancio del Sud, inventandosi cose strepitose come il Festival Ravello e così via. Ma in questo caso chiediamo al professor De Masi, ha notato, e ho notato anch'io, e la cosa mi dispiace sempre, non la reazione, ma dover dire che a Pomigliano c'è anche una storia particolare, cioè c'è un habitat di lavoro in cui, io mi rendo conto, tirare fuori il problema dell'assenteismo rischia di evocare, e ha fatto bene per cuoco a rispondermi il delegato della FIOM, rischia di evocare subito un luogo comune antimeridionale, dicendo eccoli qua, i lavoratori che non vogliono lavorare è colpa loro. Io me ne rendo conto. Però se uno conosce poi la realtà comparata degli stabilimenti Fiat in Italia, fin dai tempi della storia terribile dell'Alfa Romeo, insomma, quello stabilimento ha una storia particolare, sa che però questa questione lì c'è stata e c'è ancora, cioè non è che possiamo far finta di niente, nel senso che stabilimenti come quello di Melfi, che hanno prodotto 280.000 veicoli l'anno scorso, e attenzione, i nostri ascoltatori sanno che non è che se hanno prodotto 280.000 a Melfi e 36.000 a Pomigliano vuol dire che Pomigliano non ci hanno voglia di lavorare, perché dipendeva da che tipo di auto si producevano e quante andavano al mercato e quante tiravano rispetto a no. Però insomma un problema a Pomigliano c'è sempre stato. Allora io chiedo a De Masi, oltre al giudizio sul tipo di accordo e cosa vuol dire per Napoli, Pomigliano, eccetera eccetera, ma in realtà il problema di questa diversa capacità di lavoro con regole diverse informali, per cui io ho visto un dossier preparato dall'azienda che dice lì quando tutte le volte ci sono le elezioni abbiamo 2500 elettori, che poi vai a vedere sono elettori scrutatori ai seggi, che vai a vedere sono finti. Cioè questa roba qua è mitologia oppure se è vera da cosa dipende, professor De Masi? Dunque io ho avuto la circostanza di partecipare al gruppo che pianificò lo stabilimento agli inizi degli anni 60 con l'Uraghi prima e con Massaccesi poi. E ho seguito via via le vicende dello stabilimento di Pomigliano, su cui ho scritto addirittura due libri. Quindi diciamo lo considero un'occasione preziosa, diciamo, dal punto di vista sociologico, per osservare la realtà meridionale. In questo stabilimento confluiscono tutti i problemi in questo momento, è una specie di specchio ustorio, perché confluisce la globalizzazione, il rapporto nord-sud, il rapporto politica e sindacato, il rapporto sindacato e lavoratori, è una specie di laboratorio particolare, diciamo. Che cosa, le dico con grande sincerità, non mi è chiaro di questo accordo? Un primo problema è come si sale da 36.000 a 280.000 auto a parità di tecnologie in 3 anni. Sono andato a ritroso e mi pare che solo nel 1903 Taylor a Filadelfia ottenne un miracolo che si avvicina a questo, per cui non avendo i termini tecnici della situazione non so come spiegarmelo, però è un unicum, diciamo, nella storia delle scienze organizzative. La seconda cosa è che nello stabilimento di Pomigliano confluisce tutta la problematica della globalizzazione, ma questa non cancella tutta la problematica relativa alla dialettica delle classi, perché comunque la differenza tra operaio e impiegato, tra operaio e dirigente, tra proprietà e dipendente resta e non viene cancellato dalla globalizzazione. L'altro aspetto è questa faccenda degli assenteisti. Effettivamente l'organizzazione del lavoro a livello informale a Pomigliano d'Arco è stata sempre un fattore determinante. In un mio libro riportavo per esempio cosa viene sequestrato la mattina all'ingresso in fabbrica, che so, da 12 dozzine, che so, di canottiere a 5 gabbie di canarini, eccetera. Cioè lo stabilimento è un prolungamento della società circostante con tutto ciò che riguarda anche commercio, lavoro nero, eccetera, eccetera. E l'altra cosa riguarda le deroghe. Beh, le deroghe sono però fondamentali, bisogna che il sindacato stia attentissimo, perché lei è preoccupato poi dalle deroghe. Lei è preoccupato? Eh? Lei è preoccupato dalle deroghe, mi pare di capire. Sì, credo che bisogna essere attentissimi, perché non c'è ancora parità di forza tra datori di lavoro e lavoratori. Il sindacato è nato per riequilibrare con la coesione dei lavoratori in qualche modo questa maggiore debolezza. Le deroghe inficiano tutto questo. Infine i media. Dunque, io ieri ho letto con attenzione cosa dicevano della vicenda di Pomigliano, ho letto il Sole 24 Ore, La Stampa, Il Corriere e La Repubblica. In nessuno di questi giornali si diceva con precisione quali erano gli elementi in base ai quali la FIOM non vuole firmare. Sì. In due casi si citava così genericamente la lotta all'assenteismo, ma io credo che l'assenteismo danneggi prima di tutto il sindacato, perché lo discredita ovviamente, quindi i sindacalisti, so da sempre, ne conosco parecchi, e lì fanno una lotta loro di persona a questi farabutti che usano portare in azienda il peggio della napoletanità. Però il fatto che i media non abbiano aggiornato su questo io lo trovo gravissimo, cioè danno per scontato che la FIOM abbia torto, ma non spiegano perché. Ecco, e infatti riprenderemo esattamente da Percuoco dopo la pausa pubblicità, cioè dal rappresentante della FIOM CGIL, chiedendogli anche appunto l'opinione loro su questo innalzamento di produzione così elevata, che molto dipende però, professore Masi, dai modelli più che dai cambi organizzativi, perché prima si producevano modelli alfa che il mercato non voleva. Eccoci tornati in studio, siamo con Franco Percuoco, delegato della FIOM CGIL Pomigliano, col segretario generale della UILM, i metalmeccanici della UIL della Campania, Giovanni Sgambati, col professor De Masi. Stiamo tentando di capire meglio come stanno le cose sull'accordo che ha visto 4 sindacati su 5 dire sì al documento Fiat per lanciare la produttività a Pomigliano, la FIOM riservarsi, oggi riunisce il suo consiglio generale e poi si vedrà con il referendum. In particolare molti SMS sono molto preoccupati, devo dirlo, riconoscerlo con sincerità, sono molto preoccupati di ciò che questo accordo può portare non solo a Pomigliano e in azienda, ma nelle aziende territoriali, andando oltre il contratto. Ci sono molti lavoratori che stanno segnalando la loro preoccupazione e quindi la pensano come il professor De Masi, insomma, dicendo: noi siamo deboli di fronte alla crisi. Se le aziende si mettono a dire o così o pomì o chiudiamo, chi può responsabilmente dire no? E quindi accetteremo di tutto. E quindi c'è questa preoccupazione. Sentiamo alcuni ascoltatori e poi torniamo con il delegato della FIOM e della UILM a capire meglio qual è risposta responsabile, sia pure da punti di vista diversi rispetto a questa preoccupazione. Iniziamo con Claudio da Frosinone. Prego Claudio, come la pensa? Buongiorno. Senta, no, io la penso esattamente come il professore, lì l'esperto. C'è preoccupazione nei nostri riguardi. Io sono un operaio Fiat. Poi vorrei riguardo, cioè come a suo tempo, come stanno facendo, cercano, dicono e poi non lo fanno i politici a livello di allevare le agevolazioni, anche i sindacati devono allevare le loro agevolazioni, ci sono degli esperti. Sì, però non ci mettiamo a parlare delle agevolazioni del sindacato oggi. Quello, io sono d'accordo, ma è un'altra questione. Lei è operaio di Cassino. Come operaio di Cassino, pensa che le richieste dell'azienda Pomigliano siano sbagliate ed eccessive o hanno un qualche fondamento? A livello di produttività è un po' eccessiva, perché i lavoratori onesti che non fanno permesso mutuo, sono sempre presenti, quando arrivano a casa non possono dare retta nemmeno alla famiglia perché sono talmente stanchi, perché i ritmi di lavoro, questi modelli richiedono molti i ritmi elevati, ma quindi i sindacati devono moderare i ritmi dell'interno, agevolare le lavorazioni. Insomma, grazie Claudio, quindi lei dice dare una mano sì per produrre di più, però ci si chiede troppo. Benissimo, Roberto da Milano, come la pensa Roberto? Come la pensa Roberto? Molto semplicemente, io faccio parte del pubblico impiego, sono anche un sindacalista e quindi sembra che la cosa qui sia già stata scritta, voglio dire, noi pubblico impiego siamo stati violentati già da molti anni rispetto alla riduzione delle cosiddette libertà sindacali, personali e quant'altro, e poi l'ultima fase del non rinnovi del contratto sono anche la dimostrazione. Lì la cosa è Roberto, scritta, non si faccia dire quello che ovviamente gli ascoltatori direbbero, non gli voglio sostituire, però dice voi non rischiate il posto, quelli naturalmente di Pomigliano sì, ecco. Sì, quindi quindi siccome non rischiamo il posto violentiamoli, e questo è anche questo aspetto a che capita in questo peso. Detto questo, mi sembra tanto un gioco delle parti, voglio dire, tra chi ha già scelto di firmare e sono quelli più non consapevoli, quelli più realisti, c'è la Fiat che dice o così o pomì e non farà un passo indietro, e quegli altri ancora che in sede di trattativa come questa fase si poi nasconderanno poi dietro a un referendum che sappiamo già come andrà a finire. La cosa già si sa come andrà a finire, nel senso che l'accordo si fa perché la gente, come giustamente purtroppo mi tocca dar ragione a Marchionne, dice la gente vuole lavorare, non ci sono santi, le regole del mercato sono queste, quindi si ragiona e si lavora in questo modo. Il problema è sul futuro, cioè questo è un esempio, un punto di partenza, e poi stavo a farci una domanda a questo punto, un punto di partenza, e poi entreranno come Attila in Europa e travolgeranno tutte le regole che ci sono. Purtroppo ho la sensazione di sì, siamo in un momento storico particolare, il problema è che ruolo svolgerà il ruolo poi politici da questo punto di vista. Ma Roberto, io penso che la vera novità è che il ruolo svolgono i sindacati, se si trattano invece che con l'impostazione nazionale dei contratti di categoria di prendere posizione azienda per azienda rispetto alle specifiche temi delle aziende. Se poi vogliamo introdurre aumenti veri di stipendio, non solo bonus extra stipendio per la produttività, il sindacato è chiamato a cambiare prospettiva e a quel punto a non dire sì sempre, ma ad avere controproposte che poi traducono la produttività in salario reale aggiuntivo stabilmente per i lavoratori. Questa a me potrebbe sembrare, devo dire, una cosa per cui io la penso positivamente. È ovvio che quando si arriva alla rottura come questo il potere, insomma, di influenza del ricatto dell'azienda è molto forte. Del resto l'azienda però come fa, se deve tenere i conti in ordine, a ignorare che il 90% della produttività gli viene dalla Polonia e dal Brasile, e che in Italia ci sono dei punti così deboli? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare di continuare ad andare avanti a dirgli tu perdi pur di difendere l'occupazione in Italia? Io capisco che questa è una posizione molto forte, perché dice l'Italia ti ha dato molto in tanti anni, ed è vero che poi gliel'ha dato anche il contribuente, però nei mercati globali si può andare avanti così? E non mi dite sono sbagliati i mercati globali, perché i mercati globali sono quelli a cui abbiamo fatto entrare nella sfera di consumo 1,5 miliardi di persone in 20 anni, che sono quelli che oggi portano avanti la crescita mondiale, ci danno una speranza, quelli in base ai quali l'Italia insieme alla Germania è stato l'unico paese del G10 che ha difeso le sue posizioni nel commercio mondiale, perché questi tirano e tireranno sempre di più. Quindi non è che potevamo pensare di rimanere noi gli eletti strapagati che consumavano solo per il nostro mercato interno, ma questa è la mia opinione. Sentiamo ancora Ennio da Napoli. Buongiorno dottor Giannini. Senta, a me i sindacati, forse perché ho una certa età, mi fanno ridere, mi ricordano certi politici, parlano, è vero, tutti quanti devono guadagnare la loro pagnotta. Mi ricordo quelle che accadde a Napoli un paio d'anni fa, l'immondizia cresceva e i verdi con le loro utopie. Vabbè, però no? I sindacati non c'entravano con l'immondizia, ah? No, i verdi, ho detto i verdi, con le loro utopie. Io dico ai lavoratori, ai campani, di prendere il loro lavoro. I sindacati non si rendono conto che il mondo è cambiato, stanno ancora con certi dogmi del socialismo reale. Perfetto Ennio, il nocciolo della critica era ben presente. Torniamo con Percuoco. Il professor De Masi dice: ma davvero è possibile passare da una produzione da 36.000 a 270-280.000? Lei ha detto, noi abbiamo fatto una proposta insieme agli altri sindacati per arrivare fino a 300.000. Quindi è possibile in realtà, per Cuoco? Allora, se ci limitiamo a discutere del maggiore utilizzo degli impianti, lo ripeto, la FIOM l'accordo lo fa in 5 minuti, però... Compresi i 18 turni e il no agli scioperi nei turni notturni, il sabato, eccetera. Ma non è detto, cioè, ma là non c'è scritto, però, cioè, perché non facciamo chiarezza? Allora, noi, proprio per evitare facili strumentalizzazioni, a differenza di tanti, abbiamo messo sul sito della FIOM appena dato tutto il documento che l'azienda vuole farci firmare. Verissimo. Proprio per evitare strumentalizzazioni. Verissimo. Andiamo a vedere, andiamo a leggere attentamente quel documento e vediamo se sta scritto che il divieto di fare sciopero è limitato solo al turno di notte. Allora, detto questo, noi dobbiamo fare molta attenzione di non farlo diventare un problema antropologico quello che sta succedendo, perché quando lei mi dice e mi parla di Melfi come lo stabilimento più produttivo, io le devo ricordare, come fa la Fiat con noi, che quando ci sono le elezioni Melfi a Melfi ci sono molto più rappresentanti di lista di Pomigliano. Allora, voglio evitare di fare, cioè di entrare in questa discussione tra uno stabilimento e un altro stabilimento. Allora, stiamo parlando che la Fiat, per una sua decisione imprenditoriale, vuole fare la Panda a Pomigliano, ok? Ha bisogno di fare 280.000 vetture, va bene, parliamo del maggior utilizzo degli impianti. Noi, come FIO, abbiamo dato una proposta all'azienda di articolare diversamente le pause in modo da permettergli addirittura di fare 300.000 vetture. La Fiat probabilmente non è solo una questione di produttività che vuole. Invece e poi di... va bene, professore Masi, a dire attenzione, perché non si sta dicendo veramente tutta la verità. Cioè lei dice vogliono levarci il potere per sempre, questo un po'. No, è proprio la Fiat che lo dice ai tavoli. Il sindacato non deve avere più potere, lo dice apertamente, chiaramente. Noi vogliamo solo poter fare il nostro lavoro e di entrare nel merito delle questioni. Visto che parliamo della catena di montaggio, e lo voglio ripetere, forse non tutti quando parlano sanno di che cosa stiamo parlando, di un lavoro già di per sé disagiato. Con la nuova applicazione, ok? Ora si può dire in tutti i modi, con la nuova applicazione si vanno a peggiorare le attuali condizioni di lavoro. Noi diciamo, se dovessero succedere dei problemi, possiamo e vogliamo entrare nel merito, se le postazioni sono disagiate, se sono ergonomicamente sbagliate. Noi vogliamo avere la possibilità di fare il nostro lavoro e per cui veniamo chiamati dai lavoratori. Tutto il resto, visto che probabilmente la questione delle deroghe al contratto non è una questione solo di Pomigliano, perché se si sta discutendo di vedere come poter aumentare la produttività in Italia, allora queste cose qua, secondo me, avrebbero bisogno di una sede diversa. No, è su questo, la interrompo perché diamo l'informazione sulla circolazione stradale, ma condivido, perché tanto è vero che se Confindustria poi chiama un grande tavolo alla produttività con tutti i sindacati che si riunisce entro fine giugno, è evidente che qui siamo all'inizio di una questione che si tenterà di portare dal basso, azienda per azienda, in tutto il manifatturiero, a cominciare dal manifatturiero italiano, per tentare di fare più produttività e anche di... certo, ridiscutere e ricollocare la frontiera del potere all'interno delle aziende. Tra le aziende, i loro vertici, i loro quadri, chi immagina di dover riprendere in mano le funzioni dell'organizzazione della produzione è il sindacato. E questa è una questione fondamentale, obiettivamente. Io credo che per Cuoco ci aiuti a capire che una questione delicata è aperta a tutta la manifattura italiana. E non è, ha ragione lui, solo Pomigliano e l'antropologia di Pomigliano. Allora, di fronte a questa contestazione, per cui non è solo produttività ma è una questione di reciproci ambiti di potere tra azienda e sindacato, la risposta che dà Sgambati, il segretario generale della UILM, dei metalmeccanici della UILM della Campania, qual è? Io penso che è fondamentale, se decidiamo, di addivenire a una svolta come sindacato. Credo che siamo più maturi noi della UILM e della CISL, la FIOM ha ancora bisogno probabilmente di fare dei passi in avanti. Cioè, se lasciamo alla sola azienda ancora la gestione in termini di conflitto, di rapporti di forza, e la vicenda Pomigliano segna, come dire, proprio sui rapporti di forza una debolezza nostra, perché non siamo coesi e non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, cioè quello di pensare a un'ipotesi partecipativa nel governare un processo, il futuro, io continuo a immaginare che ci sarà sempre più bisogno di un sistema più partecipativo del sindacato e avremo successo, penso soprattutto in questo baricentro di manifattura di automobili, Melfi, Pomigliano e Cassino, se saremo insieme coesi a saper fare sia negli stabilimenti e sia nell'indotto, come dire, una grande forza coesa dal mondo del lavoro, ma un mondo del lavoro che non può essere baricentrato sul conflitto. Facciamo un esempio molto semplice, noi non siamo né i polacchi che decidono di non scioperare sul sabato e non siamo neanche i metalmeccanici corporativi degli Stati Uniti che per 3 anni hanno deciso di non scioperare, se questo è il principio di deroga. Io penso che se concordiamo, e il tempo che abbiamo perso per fare il negoziato credo che abbia inciso nel reggimento di Fiat, ma se noi davamo subito, come dire, la nostra disponibilità, io penso che ne saremmo usciti anche molto più forti. Oggi dovremmo gestirci questa condizione, che è una condizione sicuramente che non ci piace al massimo, ma meglio il lavoro ed essere appunto in questa forza ancora protagonisti piuttosto che veder cancellato un insediamento quale quello di Pomigliano. Giancarlo da Caserta, che ne pensa Giancarlo? Sì, buongiorno, io credo che questa sia un'occasione più unica per le Tirana per rilanciare le attività produttive in Campania. Bene, purtroppo dobbiamo levare dalla linea perché si sente male, ha detto una cosa più unica che rara per lanciare attività produttive in Campania. Vabbè, professor De Masi, lei diceva io sono preoccupato perché le deroghe in una condizione di crisi come questa, richiedere le deroghe al contratto può aprire una prospettiva che allarma, perché ovviamente il sindacato oggi è meno forte di un tempo. Dall'altra parte i sindacati che firmano dicono sì, ma se noi continuiamo a dire no non entreremo mai nella logica di poter condizionare le aziende che vogliono poi rimanere manifatturiere nell'alto valore aggiunto in Italia. Se noi continuiamo a dire no, ci troveremo poi di fronte al fatto che dobbiamo registrare termini merese, chiusura dopo chiusura. Qual è il giusto mezzo allora? Dunque, non c'è dubbio che nella società post-industriale si passa da una posizione frontale, dire sempre no e poi si vedrà, a una posizione propositiva, dico no e propongo dell'altro, diciamo così. Un po' come sta facendo, devo dire, la FIOM, che propone addirittura di passare a 300.000 vetture. Qui la situazione è questa però, che se si dice sì, si riducono i margini di partecipazione, non aumentano. E questo è preoccupante naturalmente. Poi c'è un altro aspetto che volevo sottolineare. A Belo Horizonte, in Brasile, il lavoro di un operaio costa in media $8 all'ora. A Milano costa $23 all'ora e a Napoli quasi altrettanto. Allora, come si può risolvere questa questione, visto che la Fiat potrebbe indifferentemente fare un'automobile a Napoli o farla a Belo Horizonte? O si quadrupla la produttività di Napoli? E questo però è complicato, ripeto, io sono un esperto di queste cose, non riesco a capire come si possa ottenere tutto questo senza per esempio incrementare enormemente gli incidenti sul lavoro e perfino le morti. L'altra possibilità invece è fare in Italia prodotti di qualità tale che non si possano fare a Belo Horizonte. E questo purtroppo le aziende non stanno facendo. Cioè pensano di combattere la concorrenza di paesi come la Cina o come il Brasile aumentando la produttività in Italia, ma bisognerebbe aumentarla talmente di tanto che io credo non ci si faccia. Laddove invece per sconfiggere la concorrenza dei paesi emergenti occorre produrre cose che lì non si sanno fare o non si possono fare. Ad esempio, se facciamo il paragone con la Cina, in Cina un'ora di lavoro costa $1 contro i $23 di Milano. Ma se confrontiamo il lavoro di un ingegnere, a Milano costa meno che in Cina. Quindi noi più facciamo prodotti sofisticati, più possiamo vincere. Più facciamo prodotti semplici, e la Panda immagino che lo sia, più siamo costretti a moltiplicare la produttività a livelli che io non credo possano essere tollerati a lungo. Io sono naturalmente d'accordo con il professor De Masi. Dobbiamo ricordare che naturalmente ogni gruppo industriale è figlio della sua storia, cioè la Fiat si è trovata per anni e anni in condizione di poter sottoinvestire a parità di intensità di tecnologie con i suoi concorrenti perché aveva le risorse finanziarie che aveva dovuto alle diverse crisi e alle diverse diversificazioni sbagliate, e nel frattempo che noi speriamo che adesso la grande sfida mondiale con Chrysler vada avanti e si alzi il livello di valore aggiunto della produzione media Fiat rispetto ai suoi concorrenti, che facciamo? Diamo una mano oppure diciamo no? Io, come avrete capito, ho impostato oggi una trasmissione in cui deliberatamente abbiamo dato più spazio a chi dice no, cioè più spazio alla CGL, al professor De Masi, a chi pone criticamente interrogativi rispetto a chi dice sì come la UIM, e l'abbiamo fatto pur avendo un nostro punto di vista. Il mio è quello che serve una logica in cui aziende e sindacato capiscano che l'Italia è seconda manifatturiera del mondo, quanto più non ha la testa rivolta al passato. Certo, strumenti e regole nuove rispetto ai diritti di chi sta in fabbrica e fa una vita a quel che guadagna davvero chi sta in fabbrica, cioè poco, è una questione delicata, ci vuole grande senso della responsabilità, grande senso della misura per tutti. Io penso che però il futuro sia quello, e oggi però apposta abbiamo molto molto moderato i termini e dato molto spazio a chi ha soprattutto più dubbi che convinzioni, più no che sì. Comunque grazie a Percuoco, a Sgambati e a De Masi e a voi tutti, grazie a regia Carmelo Clauricella e Alessandro Marco Tulli in redazione, la linea del giornale radio, appuntamento a domani. 9 in punto.